известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Listening to it, I've been just glued to it because Mr. Ross has nailed it. You know, the government is promoting bad behavior. Ascoltate cosa dice questo signore. Sta dicendo, si sta ponendo come la voce della insofferenza. Sta dicendo che il governo, l'amministrazione Obama, sta premiando chi si comporta male, sta provocando una vera e propria, un vero e proprio scandalo morale che sta espandendo il suo assistenzialismo fino all'economia. Sta dicendo che vuole resuscitare dei cadaveri come Fannie Mae e Freddie Mac. Sta dicendo che l'America, questa è l'America, sta chiedendo. Ascoltatelo, si chiama Rick Santelli. That could carry the water instead of drink the water. Hey, Rick, that's a novel idea. Hey Rick, did you... What? Who thought of that? C'è scandalo, questa è CNBC, non è mica una rete di quartiere, una rete popolare, è una rete che si occupa di economia. Improvvisamente il caos dalla borsa di Chicago. Raise their hand. How about we all... President Obama, are you listening? How about we all stop paying our mortgage? It's a moral hazard. Presidente Obama, ci sente noi agenti, tutti gli agenti di cambio che circondano Rick Santelli cominciano a fischiare. In sostanza, che cosa ha detto Rick Santelli, provocando quella che in questo weekend è diventata una specie di sollevazione popolare, disordinata, sicuramente qualunquista, populista, quanto volete, ma che però ha messo dei sassi nel meccanismo. Ha detto cose del tipo: ma siete sicuri voi? Voi che ancora la crisi la sentite, la assaporate, ma insomma non la state, come dicendo, come si può dire, pagando troppo duramente di tasca vostra, insomma riuscite a stare a galla? Siete sicuri voi di aver voglia di pagare per ad esempio i mutui di quelli che Rick Santelli ha definito i loser, i perdenti? Siete sicuri di voler pagare per il mutuo del vostro vicino che si è voluto allargare troppo e si è voluto fare un paio di bagni di troppo nella sua casa? Siete sicuri che qui, nell'America del grande individualismo, vada in scena questa forma di spinto assistenzialismo proposto dalla amministrazione Obama? Presidente Obama, mi sta sentendo? Che ne dice se noi un bel giorno smettiamo tutti di pagare i nostri mutui, no? Anche noi che possiamo pagarlo, noi che siamo agenti di cambio di una grande borsa, della più grande borsa, quella di Chicago. Che ne dice? Non pensa che così facendo, come si sta comportando, ci sta provocando un po' troppo? Rick Santelli è diventato istantaneamente, come capita in America, un simbolo di una insofferenza, un'insofferenza che ha radici essenzialmente middle class, che è sicuramente, come dire, inzolfata, no, dall'interno dell'ambiente economico americano, laddove si vede che la discesa in campo dell'amministrazione Obama e del suo pacchetto di principi etici sta cambiando radicalmente le cose. C'è addirittura sul sito del National Review, una testata conservatrice ben nota in America, una provocazione, no? un lancio in orbita per il 2012, addirittura di un ticket Palin Santelli, come dire, il populismo, una spremuta di populismo americano alla faccia dell'obamismo, che invece prova a imporre la griglia, ma anche la tenuta forte di un governo che cerca di tenere a galla con provvedimenti accuratamente preparati, ampiamente discussi, ma anche duramente criticati, una economia alla deriva. Se è vero che anche non solo Rick Santelli, con questo populismo gridato, che però vi garantisco ha fatto molto rumore in America, nessuno sapeva chi fosse questo oscuro reporter della CNBC che tutti i giorni faceva i suoi bravi servizi giù dalla sala delle offerte della borsa, della Stock Exchange di Chicago, improvvisamente è diventata una star mediatica, appunto lo vogliono fare, se non presidente, almeno vicepresidente, ma anche però un molto riverito economista come Robert Samuelson, che su Newsweek da tanti anni prova a misurare la temperatura alla economia americana, non è contento, ha titolato il suo ultimo intervento il pacchetto di stimolo di Obama, due punti, un colossale spreco, colossal waste, lo ha definito profondamente deludente e ha detto che se non funzionerà proprio Obama dovrà portare la croce di questo errore, perché dice l'oggetto di un enorme stimolo è prevenire una devastante spirale economica negativa. Non è il principio dello stimolo in se stesso ad essere messo in discussione da Samuelson, ma le strade che percorre, le vie che ha scelto e soprattutto i provvedimenti che intende mettere in atto. Per esempio, mette in dubbio il potere reale di intervento di questo stimolo su questi milioni di posti di lavoro promessi, sostiene che molti interventi hanno una durata troppo in là nel tempo, ovvero sì, promettere per esempio di rafforzare il sistema ferroviario in America come parte del pacchetto di Obama è un provvedimento interessante, è un modo di spendere che può essere intelligente, ma non è certo istantaneo, è una cosa che si dipana negli anni, nel tempo, no? Fare una ferrovia super veloce da Los Angeles a Las Vegas, un altro dei tanti provvedimenti, non è certo una cosa che si risolve in pochi mesi, bisogna attraversare bene o male il deserto, anche se non siamo più ai tempi dei pionieri, è comunque una operazione che richiede molto tempo, e altrettanto vale, ad esempio, scrive sempre Samuelson, per la questione sanitaria, no? La registrazione elettronica delle cartelle cliniche di tutti gli americani, ci vorranno anni e anni per realizzarla, è un annuncio di investimento, ma l'investimento reale chiede tempo. Sotto questi auspici che vi abbiamo voluto segnalare, perché vi garantisco che il caso di Rick Santelli in America ha fatto rumore, un servizietto anonimo, ripeto, di una televisione che si occupa di economia, che è diventato una specie di bandiera, no? Di manifesto della insofferenza, di chi della crisi ne sente parlare troppo per i propri gusti e che sulla propria pelle ancora evidentemente non l'ha assaporata abbastanza. Sono stati versati fiumi di inchiostro immediatamente sulla questione, sono saltate fuori parole come intolleranza, come razzismo, come privilegio bianco, insomma vecchie storie. Si è detto che gli agenti di cambio, quelli che battono le mani a Santelli mentre fa la sua tirata, sono notoriamente, tanto più a Chicago, fra i personaggi più reazionari che ci siano, roba da far sembrare William Buckley un moderato, insomma, che escono dall'università dove ricevono una preparazione al conservatorismo estremamente, tutto quello che volete. Però di fatto c'è un'America che reagisce all'americana, cioè tirando fuori i principi di John Wayne a uno stimolo, a una provocazione di questo genere. Sotto questo segno, Barack Obama si avvia a una settimana complicata, una settimana difficile. Oggi ha un vertice sulla crisi finanziaria, domani interverrà al Congresso e questa è una cosa molto importante, perché a Camere Riunite Barack Obama parlerà, farà il suo discorso, il suo Stato dell'Unione, sebbene in ritardo sulla media presidenziale, in quanto appena eletto. Sarà un discorso seguito da tutta America, trasmesso a reti unificate alle 9 di sera. Di cui ampiamente discuteremo il giorno dopo, cioè mercoledì, con i nostri consueti interlocutori. Ieri, per rilassarsi, ha fatto, se permettete, la stessa cosa che ho fatto io, il paragone vorrei, come dire, consentirmelo, perché è andato a vedere una partita di pallacanestro della figlia. Sua figlia giocava a scuola a Kensington nel Maryland e tutta la famiglia Obama è andata a vedere la partita con un corteo di macchine, temo leggermente più ingombrante. Comunque sono partiti, hanno bloccato il traffico, 32 km di strada bloccata perché andava a vedere la partita, e si è vista la partita. Ha incassato anche, notizia di oggi, i complimenti da Berlusconi. Silvio Berlusconi ha detto che sta apprezzando sempre più il lavoro svolto a Barack Obama. Ho capito che ci legano tratti comuni e ci lega pure l'audacia della speranza. Con un certo ritardo, Silvio Berlusconi, in una intervista al quotidiano francese Le Figaro, ha deciso di sposare questo vecchio funzionale slogan di Barack Obama, e di lui ancora detto: è un leader concreto e positivo col quale si ragiona, un tratto necessario in momenti di crisi. Obama sta dando fiducia agli americani e al mondo con quello che ha cominciato a fare con i suoi primi atti e col suo atteggiamento verso la Russia e il mondo islamico. Quindi Berlusconi, mi dispiace, ma vota sembra Barack Obama, non dà la sua simpatia a questo Rick Santelli, ma chissà se ne risentiremo parlare. She walks through the halls of the station downtown, looking for the first train headed southbound. Said, I'm lost and know I'm cold, I'm looking for a new start. And I told her I was sorry, but I already broke my heart. She walks. Al pubblico di Jefferson, il più aggiornato della penisola. Qui Rick Santelli è già uno della compagnia, già sanno chi è, rispondono come dire: uè Rick, ma che non lo conosci? È un mito, secondo Simo. Ero certo che qualcuno avrebbe esaltato la prova di questo oscuro giornalista, reporter televisivo. Guardatelo su YouTube, impazza, lo trovate anche sul sito del New York Times, un po' dappertutto, impazza l'ormai celebre servizio di servizio attacco, poi chissà cosa c'è dietro, ci sarà niente, ci sarà qualcosa Santelli. Egidio invece si incavola, dice: ogni 3x2 in America salta fuori un Giovanni lo Stagnaro, ve lo ricordate, Joe the Plumber. Troppa TV, troppo Grande Fratello. Anche Samuelson raccoglie le sue critiche. C'è Claudia che dice: Samuelson non ci ha mai capito nulla. Beh, è un po' eccessivo. Sta dicendo quello che molti diranno quando lo stimolo avrà chiaramente fallito, che non si è speso abbastanza, che lo stimolo non è stato sufficiente, nella direzione giusta, nei tempi giusti, eccetera, eccetera, eccetera. Vedremo, conteremo, capiremo. Vi ricordo che alle 4:30 arriva Federico Rampini. Abbiamo le vostre domande formulate attraverso l'apposito modulino su Facebook, ma prima, proprio su Facebook, abbiamo ben altre cose. Perché ormai, Emiliano, girano, no, i nostri argomenti di dibattito come palline impazzite, sì, proseguono anche nel weekend, quindi restano vive. Beh, c'è qualcuno per esempio che evidentemente è rimasto indietro per tutta la settimana, allora in un colpo solo domenica, cioè ieri, ci ha mandato 4 mail su 4 temi della settimana. Aggiorniamo un po', ringraziamo un po' per la fede e per l'attaccamento. Allora, io ho ripreso uno dei temi più caldi e più sensibili, direi molto delicato, quello della razza, ma tutto è partito da una frase recentissima di Eric Holder, il neo fresco ministro della giustizia, il primo ministro della giustizia di colore americano, che ha ribadito: quando si arriva a parlare di razza, gli americani sono una nazione di vigliacchi. E quindi noi abbiamo chiesto se bisogna ancora fare i conti col tema razziale in America, e soprattutto abbiamo cercato anche di metterci in connessione con il nostro paese, con l'Italia. Allora c'è Andrea che seccamente dice: prima o poi il problema sarebbe venuto fuori, era inevitabile, le cose non cambiano mai in modo repentino, da noi poi è anche peggio e ne vedremo di cotte e di crude, altro che gli Stati Uniti. C'è invece Anthony, che è chiaramente italo-americano, se non addirittura completamente americano, almeno da anche quello che scrive, dice: mi pare che la razza di Condi Rice e di Clarence Thomas, giudice se non sbaglio della Corte Suprema di colore, non sia mai stata in questione. Quando si critica invece uno di sinistra che è per caso anche parzialmente nero, allora sì che è razzista. L'America non è perfetta, ma noi abbiamo lottato più di qualunque altra nazione per questa razza, che mi pare non vede quanto sono buone le nostre intenzioni, e cita i 620.000 uomini morti nella guerra civile, più di tutte le altre guerre. Poi la donna più ricca d'America è nera, riferimento a Oprah Winfrey. Oprah. E poi la questione Obama-Veltroni, che come avete ben visto ha riempito anche nel weekend le cronache italiane, il grande rifiuto, insomma l'abbandono di Walter Veltroni, e il grande interrogativo che, se permettete, io poi insomma connetterei con quello che ha appena detto Berlusconi a Le Figaro. Emiliano, insomma, Veltroni se ne va, molla Obama per evidente notizie, ma e lo prende pronti Berlusconi dietro, cioè Berlusconi che lo raccoglie, lo, come dire, una sistematina, una spolveratina alle spalle, e se lo mette nel il santino, nel portafoglio. Staremo a vedere. Comunque vi avevamo chiesto se insomma Obama è un'impronta esportabile o no, se gli Obama nostrani hanno capito come gestire una situazione di questo genere. Maurizio ha scritto: qui non si tratta di deprimersi, bisogna reagire al di là del colore, bisogna mettersi in testa che sono le idee dettate dal buon senso e dalla responsabilità, anche le più semplici, il classico uovo di Colombo. Massimo ha scritto: Veltroni si era eletto a stile Obama, il presidente degli Stati Uniti non sa neppure chi sia questo Walter, tutto il resto è un tentativo di cavalcare l'onda col rischio di naufragare. Mi sa che è il naufragio. Orazio dice: la cosa da capire è semplice, primo, siamo in Italia, secondo, il modello Obama da noi non può essere applicato per il semplice motivo che la politica viene fatta solo contro e non per. Bene, questa è un buon segnale su cui chiudere, mi sembra anche interessante come provocazione, su cui chiudere questa pagina e aprire rapidamente la pagina delle notizie a 360 gradi, perché ce ne sono, prima di poi immergersi insieme a Federico Rampini nella questione cino-americana. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. Allora Stefano, fino a poche settimane fa eravamo soprattutto un programma bipolare, no? Cina e Stati Uniti, uno contro l'altro, uno verso l'altro. Adesso siamo rotondi. Quantomeno c'è un terzo polo fisso, certo, che è il Medio Oriente, in particolare Israele. Si sono svolte ormai due settimane fa le elezioni, incertissime soprattutto nel risultato finale, e stiamo seguendo l'evolversi faticoso, altrettanto incerto, della composizione del governo. Da venerdì Netanyahu è stato ufficialmente investito dell'incarico di formare il nuovo esecutivo. La notizia del giorno riguarda Barak, non Obama, ma il leader dei laburisti israeliani, che ha incontrato Netanyahu e però ha rifiutato l'invito del leader del Likud ad aderire alla nuova coalizione di governo. Parole chiare quelle di Barak, che insomma si sta preparando ad una responsabile, seria e costruttiva, ha detto lui, opposizione. Nel frattempo ieri invece è stato l'incontro tra Netanyahu e la Livni, che essendo leader di Kadima è la leader del partito che sulla carta ha vinto le elezioni, in quanto ha preso più voti di tutti nella nuova Knesset, e che è quella che continua a dettare e che è un po' l'ago della bilancia, no, forse, certo, della situazione. Ieri c'è stato questo primo faccia a faccia tra Netanyahu e Livni, si sono impegnati a rivedersi ancora, quindi forse l'ipotesi di una coalizione che metta insieme Likud e Kadima è ancora praticabile. Poi qualcuno sottolinea che in realtà per ora Netanyahu ha visto tutti i big, i grandi degli altri partiti, ma deve soprattutto ora incontrare i piccoli, soprattutto di destra e dei religiosi, e da quello che gli diranno e soprattutto gli chiederanno si capirà meglio poi la direzione che prenderà il nuovo governo di Israele. C'è un ascoltatore che sostiene che in una foto di Hillary in Cina si intravede Paolo. Si intravede Paolo, beh, se uno biondo con riccio è lui. Si intravede Paolo. Va bene, vi do solo una notizia che sempre riguardo a Hillary, riguarda il suo abbigliamento, la prima visita della Clinton a Pechino, devo dire sì, elegantissima, perfetta, precisa, ragazzi, la signora sa lavorare. All'epoca, negli anni 90, fu vista con scetticismo per il suo look un po' troppo fantasioso, adesso si è aggiornata, niente abitini gialli, è andata là vestita praticamente da ministro di nero. degli extraterrestri russo, sì, di nero, è piaciuta molto, ha conquistato le simpatie dei media, dei funzionari, dei grandi dirigenti, e ha saputo in un certo senso dare anche alla simbologia di questa America difficile ma comunque orgogliosa e dura una ottima rappresentazione. Di tutto questo, anche grazie alle vostre domande su Facebook, ma anche ai messaggi che attendiamo e registriamo, 349-238-6666, parliamo con Federico Rampini, a cui poi più tardi si unirà anche Saro Capozzoli qui a Jefferson su Radio 24. A tra poco. The shape you're in, finger on your eyebrow and left hand on your hip, thinking that you're such a lady killer, think you're so slick. Well, all right. Johnny, he caught a plane and he got on it. Now he's a razor in the wind, and he's got a pistol in his pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. Eccoci, e apriamo subito, per usare al meglio il tempo, questo collegamento con Federico Rampini, il corrispondente della Cina di Repubblica, autore di recente di un nuovo libro intitolato 100.000 punture di spillo, scritto con Carlo De Benedetti, con la partecipazione di Francesco Taveri, è venuto anche a presentarcelo qua in studio, e autore nella strettissima attualità di un articolo di copertina, anche di un dossier approfondito, interessante, su Repubblica, intitolato Cimerica, dove si parla, il catenaccio recita: la Cina ha preso gli Stati Uniti come modello e partner nella svolta capitalista, ora la crisi mette in difficoltà il rapporto, ecco perché. Tutto ciò naturalmente in coincidenza con la visita di Hillary Clinton a Pechino, e anche i risultati o i non risultati che ne sono sortiti, motivi più che sufficienti, oltre alle tante domande che ci avete mandato via Facebook, per Federico, per sentirlo e fare quattro chiacchiere. Buon pomeriggio e grazie, Federico. Buon pomeriggio a voi. Senti, prima di tutto ti giro l'ultima, con somma ingiustizia, l'ultima domanda arrivata, mi sembra molto d'attualità, da parte di un ascoltatore via SMS, e recita così: che significato, il giorno dopo gli Oscar, che significato possono avere per l'India, un paese su cui tanto hai scritto e di cui tanto ti interessi, tutti gli Oscar vinti la scorsa notte? È una roba che appartiene, come dire, tutta all'Occidente che scopre l'India, o anche un effetto interno, domestico, per l'India? Cosa ne dici? Beh, prima di tutto, certo, è l'Occidente che scopre l'India, è Hollywood che deve inchinarsi di fronte alla sua rivale, che di fatto l'ha già superata, perché in realtà già dall'anno scorso Bollywood, che è la capitale del cinema indiano, che si trova alla periferia di Mumbai, ha prodotto più film di Hollywood, quindi c'è un'industria del cinema indiana che è prorompente di salute e di vitalità. In un certo senso c'è anche una sorta di omaggio reso dall'America a un paese che oggi forse incarna ancora meglio degli Stati Uniti quella capacità di sognare, di avere una fiducia nel futuro, un ottimismo, una speranza, anche quando le condizioni di partenza sono disperate, come nel caso del protagonista del film, che certo, è un bambino nato in uno dei più poveri quartieri, una baraccopoli di Mumbai. Per gli indiani comunque è un momento di orgoglio, di grande felicità, l'hanno festeggiato perfino gli abitanti di quel poverissimo e squallidissimo quartiere di baracche. Certo, dunque un tuo articolo, come dicevo, ha in un certo senso introdotto, ha inquadrato per i lettori italiani quello che stava andando in scena in diretta in quei giorni, qualche giorno fa, nel fine settimana scorso, con Hillary Clinton in visita a Pechino, e questa strana visita, se vogliamo vederla in senso ecumenico, no, per le aspettative, per i tanti temi che ci si aspettava di vedere celebrati, messi sul tavolo, e che invece sono stati, come sappiamo dalle cronache, accuratamente lasciati al di fuori di contatti che hanno, da quello che è trapelato, occupato soprattutto la sfera economica. Mi dai un tuo punto di vista a posteriori, come è andato l'incontro tra Hillary e il potere cinese, e soprattutto se è questo che ci dobbiamo aspettare con la nuova amministrazione, ovvero che in tempi di crisi purtroppo vanno in crisi anche alcune questioni di ordine etico, comunque si mettono in fila dietro i più pressanti, apparentemente più pressanti problemi economici. Federico. Bah, è andata benissimo dal punto di vista dei cinesi, visto che appunto Hillary Clinton si è ben guardata dal venire qui a Pechino a dare lezioni sul tema dei diritti umani. Anzi, il tema su cui ha insistito di più è stato quello dell'economia, la necessità che Cina e America insieme collaborino per rilanciare la crescita mondiale. Ha avuto perfino la spudoratezza di dire molto esplicitamente ai cinesi: per favore continuate a comprare i nostri titoli del tesoro, perché di questo l'America ha bisogno. La Cina è diventata da tempo il principale banchiere degli Stati Uniti d'America, la banca centrale cinese, che ha 2.000 miliardi di dollari di riserve ufficiali, ne investe la massima parte in buoni del tesoro americani, in questo modo tiene a galla il bilancio federale di Washington. Almeno su un punto, diciamo così, di valori, Hillary non si è autocensurata, è stata sulla questione ambientale, cioè ha detto ai cinesi: abbiamo bisogno di voi anche per vincere la sfida del cambiamento climatico, la riduzione delle emissioni di CO2, almeno in questo ha rappresentato l'anima nuova dell'amministrazione Obama. Per il resto, con i tempi che corrono, con questa crisi, con le difficoltà economiche degli Stati Uniti, bisogna scendere a patti con la seconda economia più ricca del pianeta. E non è poco, come considerazione, visto anche il peso, insomma, che hanno preso alcune questioni anche nell'opinione pubblica mondiale, pensiamo solo al Tibet, a Taiwan, insomma, storie molto importanti. Ti comincio a girare le domande ai nostri ascoltatori, per esempio Mariano, che scrive e vuole sapere da te se a tuo parere le due potenze, parliamo di America e Cina, sono davvero così interdipendenti come hai scritto e come sembra di capire, ovvero quali sono le ripercussioni dei dazi doganali, ad esempio paventati dal team di Obama, sull'economia cinese e sulle relazioni dei due paesi. La complementarietà è stata strettissima e si può dire che tutta l'ultima fase della globalizzazione si è imperniata proprio su questa simbiosi tra Cina e Stati Uniti. Da una parte la fabbrica del pianeta, la Cina, dove centinaia di milioni di operai hanno lavorato con bassi salari per riempire i supermercati americani di prodotti a basso costo. E questi stessi cinesi, peraltro, risparmiando gran parte del proprio reddito, poi hanno consentito alla Cina di accumulare quei forti avanzi commerciali che sono stati riciclati proprio rifinanziando gli Stati Uniti. Quindi al tempo stesso la Cina era il produttore favorito per le famiglie americane e anche il creditore che consentiva agli americani di vivere al di sopra dei loro mezzi. Adesso quel meccanismo si è inceppato, è chiaro, questa crisi ha spezzato alcuni ingranaggi e soprattutto l'America si è resa conto che non può più vivere al di sopra dei suoi mezzi, però al tempo stesso questo non significa che possa fare a meno della Cina. Ci sono dentro l'America degli umori protezionisti che si sono manifestati in modo clamoroso con l'introduzione della clausola Buy American, comprare, certo, americano, dentro la manovra di rilancio dell'economia, questo per i cinesi è motivo di preoccupazione. Non siamo ancora a una vera e propria guerra protezionistica e Dio ce ne scampi, perché non dimentichiamo mai che negli anni 30 la causa vera della Grande Depressione, ben più del crack di Wall Street del 1929, fu proprio l'escalation di protezionismi che fece crollare il commercio mondiale, deprimendo la crescita. Ancora una domanda prima dell'introduzione per il traffico, arriva da Alfonso. Federico, che ha letto un tuo articolo pubblicato sull'IMES nel numero del maggio 2008, in cui Rampini scriveva, questa la il messaggio di Alfonso, che l'Europa brillava per la sua assenza nella crisi e che gli Stati europei avevano fatto mostra di una cacofonia assordante. Vuole sapere se hai cambiato idea dopo la riunione di ieri a Berlino, ma insomma se ormai a tuo parere gli scenari sono modificati in profondità. Ma ahimè non ho cambiato idea nel fondo, ci sono stati degli sprazzi di vitalità europea, anche di unità europea, soprattutto nell'autunno scorso, ottobre, quando il piano Gordon Brown per il salvataggio delle banche, l'attivismo di Sarkozy per cercare di promuovere una Bretton Woods 2, dava la sensazione che l'Europa potesse finalmente contare. Poi abbiamo visto che invece di nuovo siamo tornati a un'Europa in ordine sparso, dove non si riesce nemmeno a varare un piano unitario di rilancio della crescita. Il vertice di Berlino di ieri è stato un vertice di retorica, di proclami, di principio sul fatto che bisogna riportare sotto controllo tutte quelle attività finanziarie che sfuggono alle banche centrali, ma di decisioni concrete zero. Va bene, grazie a Federico, ci risentiamo tra qualche istante dopo un po' di musica e la linea al traffico. Insomma, come si diceva una volta, no? Non ve lo diamo per uno, ve lo diamo per due. Insomma, abbiamo raddoppiato per mostrarvi la quante linee al telefono ci abbiamo. Insomma, adesso abbiamo in linea ancora Federico Rampini, che ci sta gentilmente ascoltando e rispondendo da Pechino in relazione agli ultimi eventi di alta politica, no? L'incontro del segretario di Stato Clinton, Hillary Clinton, con i principali esponenti cinesi e questa sua cover story su Repubblica intitolata Cimerica, Cina-America, insomma i punti di incontro, di possibile scontro, ma comunque di cointeresse tra le due grandi potenze. Abbiamo in linea anche Saro Capozzoli, fondatore e presidente di IES, cinese, una società di consulenza per le aziende italiane che vogliono fare affari in Cina, ma soprattutto a un vostro ormai credo abituale amico, una voce che ascoltate spesso qui a Radio 24, sono Occhi Italiani sulla Cina di oggi. Ciao Saro. Ciao a tutti. Allora, Federico ci stava raccontando con, mi sembra, una certa soddisfazione, un certo interesse di come è stata recepita la visita di Hillary in Cina e di come in realtà ci sia poi, no, un piccolo neo in tutta la questione, soprattutto nel lancio della nuova impostazione dei rapporti da parte dell'amministrazione Clinton, e che sia tutto in quello slogan, almeno in parte in quello slogan, Buy American, che sicuramente ai cinesi deve essere piaciuto poco. Tu hai spesso a che fare con imprenditori cinesi, anche mi confermi che come dire, è suonato un po' sinistro quello slogan alle orecchie dei cinesi? Sì, certamente. Una cosa che bisogna comunque dire è che anche il vice ministro del commercio estero il 10 febbraio anche comunque ha detto che la Cina adotterà la stessa politica Buy Chinese in risposta alla politica americana. E il fatto stesso che in questi giorni ci siano quasi un centinaio di fra imprenditori, politici e manager cinesi in giro per Europa a comprare in Europa, no? E stiamo parlando di investimenti di diversi miliardi di euro, è un qualcosa che fa pensare, cioè sono cose che sono passate un po' in sordina da noi, però diciamo proprio oggi è partita una nuova delegazione che è andata in Germania, 112 persone di 45 diverse imprese cinesi che sono andate appunto in Germania a discutere accordi di cooperazione, specialmente a comprare tecnologie e beni. Un esempio fra tutti, stanno comprando, rilevando tutta la tecnologia del maglev, cioè il treno magnetico ad alta velocità, dalla ThyssenKrupp. Cioè, quindi la risposta cinese sarà ben chiara: andiamo in Europa a comprare, no? Questo è un qualcosa, certo, che è un processo che saranno quattro scaglioni di delegazioni che andranno in giro per Europa e nei paesi in Germania, in Svizzera, in Spagna e in Gran Bretagna. Ecco, da notare i paesi dove andranno. Sì, ne manca uno. Federico, che cosa ne dici? E ci aggancio anche questo SMS che ci è appena arrivato da Carlo, che sostiene che secondo lui il vero problema è l'assenza di un mercato interno cinese che assorba la produzione, lasciando spazio magari anche a altre aziende, anche occidentali. Insomma, che come mi sembra sostiene anche tu nel tuo articolo, al di là della sua potenza, la Cina ormai ha un bisogno quasi tossico, no? del mondo in cui scaricare, no, la propria potenza produttiva, è così? Certamente la Cina ha bisogno di noi, ha bisogno del mercato, esatto, di sbocco americano, europeo, giapponese. In questo momento sta soffrendo di questa crisi, anche se la sua economia continua a crescere, però la velocità di crescita si è dimezzata, e in una regione fortemente industrializzata come il Guangdong lo stesso governo cinese rivela che 20 milioni di operai che hanno perso il posto di lavoro perché le fabbriche sono fallite sono dovuti ritornare a lavorare i campi. Non c'è dubbio che nel medio-lungo termine la soluzione non solo dei problemi cinesi, ma di un bel pezzo dei problemi del mondo intero passa attraverso un aumento dei consumi interni della Cina e anche dell'India, tra l'altro, ma soprattutto della Cina, che è un paese che produce molto, consuma relativamente poco. Bisogna arrivare a far consumare di più i cinesi per sanare alcuni squilibri macroeconomici che sono all'origine anche di questa crisi, come appunto l'eccesso di deficit americani e di attivi commerciali cinesi. Il governo cinese ne è consapevole, ha l'intenzione di stimolare i consumi interni. Per farlo però deve costruire uno stato sociale che finora in Cina non c'è, perché una delle ragioni per cui le famiglie cinesi risparmiano così tanto è che devono provvedere alla propria vecchiaia, perché il sistema previdenziale è molto scarso, devono premunirsi in caso di malattia perché la sanità di qualità è costosa, devono mettere da parte per finanziare gli studi dei propri figli, del proprio figlio, che di solito è figlio unico, perché anche il sistema scolastico, che è molto selettivo, quando si va nelle scuole di eccellenza, nelle università di eccellenza, è costoso. Quindi lo Stato deve investire molto di più nei servizi sociali, perché per liberare una parte del reddito delle famiglie e queste lo possano spendere. Saro, io so che tra l'altro leggi con interesse gli articoli di Rampini che presentano la Cina, spesso li condividi, certe volte hai qualche osservazione, ce ne parli. Condividi il punto di vista che ha espresso adesso Federico? No, su questo sono d'accordo, tutte cose esatte, nel senso che le viviamo ogni giorno. Il problema è che c'è qui col sistema sociale cinese, che non è certamente adeguato, e quindi i cinesi risparmiano, quindi non consumano per poter appunto mettere da parte per la sanità, certo, o per il figlio. Certo. Una cosa importante che vorrei dire è che l'altro giorno ero con un mio amico imprenditore cinese e mi ha fatto un paragone interessante. La Cina in questo momento è un po', sta entrando in guerra contro, diciamo, la crisi. E come hanno fatto gli americani quando sono entrati in guerra, che hanno convertito le fabbriche che facevano automobili o facevano altre cose, hanno cominciato a costruire carri armati, a costruire, per dire, le pallottole, hanno praticamente rifatto, rimettere in moto tutta l'economia, diciamo, americana, no? Durante la guerra, adesso i cinesi devono imparare a riconvertire la loro industria, perché ci sono dei prodotti che qui non trovano mercato, perché non si vendono, perché non trovano mercato. Faccio un esempio: le tapparelle, i cinesi non usano tapparelle, certo. I motori elettrici per le tapparelle non vengono prodotti qui solo per l'esportazione. Ora questi signori stanno per pensare di cosa facciamo? Facciamo altri prodotti che possono essere venduti in Cina. I giocattoli, io che sono qui in Cina ormai da 20 anni, raramente vedo un negozio di giocattoli, se non in qualche corner del Carrefour, eccetera. Ecco, adesso sto pensando, facciamo qualcos'altro con queste fabbriche, perché dato che i bambini cinesi spendono più tempo a studiare che a giocare, troviamo il modo di usare queste fabbriche che hanno chiuso, che hanno problemi, che facevano giocattoli per l'America, per l'Europa, che ha smesso di comprare come prima, per fare altre cose. C'è un totale ripensamento dell'industria per poter appunto uscire dalla crisi. Ecco, questo è molto interessante. Per concludere rapidamente, Federico, sei d'accordo? Cioè il concetto di conversione potrebbe essere una chiave interessante per capire e internamente per risolvere questo approccio alla crisi da parte della Cina? Intanto, se mi permettete una battuta, vorrei, certo, riprendere quella frase azzeccata che i bambini cinesi passano più tempo a studiare che a giocare. Direi che questa è una frase che andrebbe ripetuta giorno dopo giorno ai bambini italiani per motivarli, perché effettivamente hanno, certo, da, certo, misurarsi con una competizione piuttosto agguerrita. No, è vero che l'economia cinese entra in una fase dove una imponente riconversione è necessaria. Tra l'altro, uno degli aspetti di questa riconversione riguarda il settore energetico, il consumo di energia. Il governo cinese sta investendo molto in energie alternative, nucleare ma anche solare, eolico. Dovrà fare ancora di più, perché uno dei suoi problemi è anche che il modello di sviluppo fondato sull'industria pesante fin qui seguito è stato un modello energivoro, con degli sprechi immensi e dei danni tremendi sull'ambiente cinese. Grazie a Federico Rampini e a Saro Capozzoli, Cina-America, li abbiamo forse avvicinati un po' di più oggi. Grazie al contributo di queste due persone che su tutto ciò ragionano e lavorano giorno per giorno. E l'hanno fatto per l'edizione di oggi di Jefferson 2. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia hanno lavorato Valerio Rocchetti a Roma, Filippo Reggi a Milano. La mail è jefferson2@radio24.it. Poi ci sono questi benedetti siti Facebook. Per parlare con noi, per contattare la redazione, proporre, criticare, indicare, suggerire, redazione Jefferson 2. Invece per partecipare ai dibattiti finalizzati di giorno in giorno ai temi più caldi, Jefferson 2, Radio 24, Express Yourself. Aderite numerosi, lavoriamo così insieme a fare questa trasmissione che sentite in replica stanotte a mezzanotte, tra un po' poi è disponibile in podcast, in diretta domani attorno alle 4 qui su Radio 24. 这是游戏。